Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La mattina frequentavano il liceo classico, dopo finivano nelle mani degli sfruttatori. La storia shock a Roma di due ragazzine di 14 anni, due minorenni dunque indotte a prostituirsi da un gruppo di adulti, tra cui anche la madre di una delle due ragazzine. Adesso i carabinieri indagano per cercare anche, diciamo così, di individuare i clienti di queste due ragazzine, e questa mattina ci saranno anche gli interrogatori dei cinque arrestati. I clienti che frequentavano il mini appartamento di Viale Parioli erano disposti a sborsare 300 euro per un incontro con una ragazzina, tariffa che saliva a 500 se l'incontro era particolare, lui il cliente e le due liceali di 15 e 16 anni. Qualcuno di tutta questa storiaccia di cui avrete sentito ampiamente parlare, perché ormai è l'apertura di tutti i giornali, improvvisamente caschiamo tutti dal pero, diciamo no, com'è possibile? Due ragazzine di 14 anni che si prostituiscono attraverso un sito. Beh, andate a vedere bachecaincontri.com, che è il sito di cui tutti stanno parlando. Ma io stavo, forse avete anche sentito qualcosa, digitando gli incontri possibili su Roma. Beh, ho una ampia visuale su ragazze che dicono di avere 18 anni, 19 anni, la più bassa ho trovato 19 anni, ma 20, 21 tantissime, studentesse caldissime di 21 anni, di 20 anni, con foto esplicite di quelle che sono le loro più salienti caratteristiche, con un elenco molto dettagliato di quelle che sono le loro specialità. E dov'è la sorpresa? Se li stanno, qualcuno evidentemente permette che loro continuino lì a rimanere, quindi alimenta la loro offerta. È chiaro, quando si parla di ragazze minorenni così precocemente bruciate dalle intemperie della vita, uno deve avere un senso di rispetto verso le persone coinvolte, verso le famiglie coinvolte e via dicendo. Però no, di sorpresa, non fare gli stupiti. Magari ci si stupisce di un'altra cosa. Ormai uomini di 30-35 anni, noti e stimati professionisti, hanno bisogno di pagare delle donne per fare l'amore. Perché? Perché vogliono donne minorenni, vogliono carne fresca, vogliono qualcosa che il già ricco, ampio e generoso mercato delle cosce disinibite a Roma, vi assicuro, non è assolutamente un problema, soprattutto se uno ostenta un notevole potere d'acquisto. Girate per la Roma godona, notturna e cafonal, come la immortalano le foto di Pizzi su Dago Spia. Beh, sembra che la crisi non abbia attraversato queste persone, sempre belle macchine, poi vai a vedere se sono prese col leasing e pagano soltanto due rate e poi la ridanno indietro, sempre signori abbronzatissimi, sempre palestratissimi, sempre donne ipertaccate, felici, rutilanti, titubanti, insomma sembra che improvvisamente continuiamo ad essere in un film di Sorrentino a tempo indeterminato. E come mai la crisi non azzanna queste persone? Perché? Perché vivono sul bluff. Due mesi fa hanno arrestato degli avvocati che facevano una truffa all'INPS, fingevano che degli anziani deceduti, morti, nemmeno loro lo sapevano, rivendicassero degli arretrati e facevano bei soldi, hanno fatto bei soldi ai danni delle pensioni, capito? È chiaro che poi si fa la bella vita, si hanno le ville, si hanno le case, si passano weekend. Ho scandagliato uno dei profili Facebook di uno dei due papponcelli che hanno arrestato, sì, è una parola, è così esattamente, persone che mettono a disposizione l'appartamento perché le ragazze si prostituissero, non ho altro termine per definirli. È tutto un fiorire di organizzazioni di apericene e di seratine. La pericena poi è bella, questa sua caratteristica del vorrei ma non posso, è il massimo della trasgressione, della felicità permesse al tempo della crisi. Correggo Fabrizio Antoni, presunti papponcelli, persone che mettono a disposizione i loro appartamenti, come risulta, però non è detto che poi in realtà ne avessero vantaggi finché un tribunale non lo stabilisce. Però comunque è nell'aria che ci sia qualcosa che non convince, qualcosa che non torna in tutto questo. Ci sia una necessità improvvisa di avere una liquidità superiore a quella che possono fornire i normali mezzi di sostentamento. E poi in tutto questo serpeggia la presenza, forse tenuta in secondo piano rispetto allo stracciarsi delle vesti per la morale infranta, no, dietro c'è la cocaina, girava tanta cocaina. Le ragazzine, almeno da quello che leggo nei giornali, si prostituivano per avere soldi per farsi di cocaina. Probabilmente il giro di tutte le persone poi usufruiva dei loro favori, erano persone che andavano lì già belli strippati di coca, perché è il condimento indispensabile per ogni attività ludica. Gli apericena probabilmente non sono tali se qualcuno non si porta anche la pista e poi se la tira al gabinetto davanti a tutti, come molto più facile che sia. Beh, tutto questo qual è il vostro parere? 800240024. Chi gestiva l'agenda delle due giovani è lui, Mirko Jeni, 38 anni, autista e barista. Ai primi di ottobre è stato lui ad affittare questo appartamentino nel cortile di un palazzo d'epoca della Roma Bene. Se ne vantava anche con gli amici su Facebook. La presenza delle ragazzine dalla doppia vita qui non era passata inosservata. Ma noi che ne passavamo, entravano, ma non credevo che venissero dalle amiche. Venissero? Dalle amiche. Quindi le vedeva? Vedevo entrare, uscire, basta. Prima dei Parioli, altri appartamenti in altre zone della capitale, perché questa attività andava avanti da La signora vetero parolina non ha parole, ha la voce strozzata nella gola come nel suo rispettabile palazzo dove ci saranno i cartelli: non fate fare la pipì nei cani negli angolini, non sputate per terra, ci sono 70 portieri con la livrea, ci sono meccanismi di sicurezza, telecamere, dove nulla sembra attentare la rispettabilità degli abitanti. Sembra impossibile che venissero dei ragazzini minorenni su quello squallido lettuccio che poi lo vedo nei filmati dei carabinieri, orrendo, con quelle macchie grandi, imbarazzanti sul materasso, come se ci fosse stato il giaciglio di un anziano incontinente. Era il letto dove andavano queste persone poi a consumare i loro atti d'amore. Noto con sorpresa moti di disgusto al di là del vetro. Ragazzi, osservate attentamente, i particolari sono importanti. Era un triste giaciglio, un appartamentino scannatoio che ha affittato un signore su Facebook. Scriveva: mi sono fatto l'appartamentino, vieni a trovare, adesso c'ho l'appartamentino. E in una delle intercettazioni una di queste ragazze dice: viene uno che ti porta 250 sacchi, 150 sono per me perché devo pagarmi l'appartamentino, e vieni, devi farlo per forza, non me va se non te va, è il tuo lavoro e devi essere seria. La madre lo sapeva, ma invece di fermare la figlia la istigava a prostituirsi per poi farsi consegnare parte del compenso. Ciò non le impediva di assumere il ruolo di madre premurosa, raccomandandole di studiare perché a scuola andava male. È la storia di una quattordicenne convinta da un'amica di scuola di un anno più grande a prostituirsi e spinta dalla madre, barista, a proseguire. Il guadagno era assicurato, 300 euro a prestazione, addirittura 5.000 euro per un weekend. I soldi al centro di tutto, ma anche la droga. Non siamo in un quartiere malfamato, ma ai Parioli, tra le zone più eleganti di Roma. Storia di prostituzione minorile, di cocaina e di rapporti conflittuali con i genitori. Tutto comincia a maggio. La quindicenne viene adescata via internet da quattro uomini tra i 29 e i 43 anni. Subito dopo è lei a convincere l'amica a seguire la stessa strada. La prima nemmeno trovo un elemento nuovo legato alla contemporaneità o alla disgregazione dei costumi, le madri che favoriscono la prostituzione delle figlie. Chi ha cultura legge romanzi d'appendice pieno di madri che portavano piccole mendicanti disgraziate da signori danarosi per averne in cambio i favori. C'è un'iconografia grandissima di madri che mandano le figlie a battere, le mandano ai casini, le mettono nel letto di qualche facoltoso signore. Non è questa la novità. C'è una novità. Sergio, buongiorno. Sì, Sergio, buongiorno. Il suo punto di vista. Sì, io ho chiamato per dire che io sono un ragazzo che si è laureato da poco e anche nella mia università, seppur non possa averne la prova provata, erano delle situazioni quantomeno equivoche, nel senso che le ragazze e non solo avevano atteggiamenti, diciamo così, compiacenti nel momento in cui si doveva ottenere un dottorato piuttosto che un assegno di ricerca. È tutto questo perché in realtà sapevano che l'avere una visibilità di un certo tipo e il proporsi in certi contesti poi portava a una carriera quasi sicura. Però Sergio, non vorrei confondere i piani. Allora, darla per ottenere dei favori, per ottenere un posto di lavoro, per ottenere un avanzamento di carriera, per ottenere l'attenzione di un professore è una cosa. Prostituirsi regolarmente in cambio di denaro in un luogo atto alla prostituzione è un'altra cosa. Io non giustifico nessuno dei due, ma nemmeno me la sento di prendere posizione verso nessuno dei due atteggiamenti. Però le sue colleghe che magari se si prendevano, facevano una prova orale supplementare con il professore per avere il dottorato, in realtà era un'altra forma di usare magari in maniera strumentale il proprio corpo, o sbaglio? Un testo che poi probabilmente porta una ragazzina ascoltare i discorsi della madre o della sorella e poi a proporsi, perché è solo un passo, ora è per la ricarica, domani sarà per avere un'attenzione diversa piuttosto che la carriera, che io non sono moralista. No, però l'ho capito, utilizza... ho capito cosa vuol dire Sergio, vuol dire si è talmente depotenziato il valore, che è un valore oggettivo, senza essere moralisti, la sessualità in sé è qualcosa che se ben usata dà grande soddisfazione, può essere usata anche in maniera strumentale, ma bruciarla significa che poi a 16 anni, quando cominci a 11 anni, a 14 già fai le marchette, cioè che ti inventi più, e questo è il problema probabilmente. Giacomo? Salve, sì, appunto, volevo sulla scia di quello che state dicendo, volevo intervenire per dire che nel senso la prostituzione in generale non è sempre qualche cosa dove ci sono delle persone che sono obbligate a farlo. Il problema è l'età, cioè il problema è che una donna adulta e formata sicuramente ha una consapevolezza maggiore di quello che sta facendo. Il problema è quando vengono spinte delle persone che magari lo vedono ancora come un gioco, perché cioè lo vedono come un gioco, nel senso sono in un'età in cui se le cose vengono messe davanti a loro come un gioco dove possono ottenere dei premi, magari lo interpretano a quel modo. Non capiscono l'effetto devastante può aver su di loro entrare in questo tipo di giro. Fa parte del sentirsi importanti, il sentirsi gratificate, dell'essere al centro di qualcosa che dà loro il brivido di trasgressione. E soprattutto se uno comincia a sniffare cocaina a 13 anni, poi i soldi per prenderla, chi glieli dà? Alla fine necessariamente deve seguire questa strada. Rita, buongiorno. Oh, buongiorno, salve, io sono un'insegnante, lavoro a Roma in una scuola di periferia nella zona della Collatina Palmiro Togliatti, insegno in una scuola superiore in un tecnico industriale maschile. E la cosa che volevo dire è che appunto la prostituzione è ovunque, i ragazzi ce l'hanno sotto la scuola, noi abbiamo prostitute che già dalle 11 di mattina sotto il nostro istituto attendono i clienti e si infrattano nel campo che confina con la scuola. Si stanno girando le foto in internet proprio di quell'episodio, molti che praticamente a cielo aperto. No, una cosa, guardi, sì. Le assicuro, noi le vediamo dalle nostre aule. Riusciamo a vederle dalle nostre aule, questi accoppiamenti, queste ragazze sono sbattute in dei giacigli, chiamiamoli così, indecenti, in un luridume, in una sporcizia indescrivibile. Ecco, ma lei se l'ho mandata mai, professoressa, chi siano poi i clienti che vanno? Perché che le ragazze facciano parte è un altro tipo di storia, però prendo la sua testimonianza, parte di un giro, di un racket, vanno lì, quelle probabilmente perché se non ci vanno sì. Lì tagliano la gola, non sono certo, le ragazzine no, parioline, ecco, ecco. Ma chi sono gli uomini che vanno a prendersi una schiava in un giaciglio fatto di putridume davanti a una scuola? Purtroppo i ragazzi che escono dalla scuola le vedono e le incontrano, purtroppo forse anche loro ci vanno. Cioè dei ragazzi di un liceo hanno bisogno di pagare una donna in mezzo guardi, ai rifiuti? Noi non possiamo sapere, talmente alla portata di mano loro in tutti i sensi, è talmente lì davanti a tutto, è così facile che non possiamo sapere se loro fanno o non fanno, sono ragazzi di periferia, sono ragazzi di famiglie semplici, forse non educati. Ecco, lei è una scuola soltanto maschile, soltanto l'ultima... Prevalentemente maschile. Ecco, ma lei in qualche maniera si è trovata molto meravigliata nel leggere sui giornali che ragazze di 14 anni pratichino in maniera abituale la prostituzione? Meravigliata nel senso che è sconvolgente poi che sia così evidente, ecco, forse non ci vogliamo pensare, forse non ci sembra così dietro l'angolo, questo effettivamente un po' mi ha colpito, soprattutto il fatto che ci sia in mezzo una mamma, questo è stato terribile per me. E comunque non si riesce a risolvere il problema di questa prostituzione di strada a tutte le ore. A posto sul piatto un altro tipo di problema, però in qualche maniera si possono contaminare. Melog, cronache meridiane. Io sapevo che quella casa era chiusa, che non c'era nessuno. Questo signore dice che vedeva entrare e uscire un ragazzo mai visto prima dal portone. Aveva notato movimenti strani in questo palazzo al civico 190 di Viale Parioli. A mettere i carabinieri sulla strada giusta è stata la mamma di una delle due ragazze, in cui la figlia di 15 anni, che era andata a vivere da sola, disponeva di troppi soldi. Chi glieli dava? Le due si spacciavano per maggiorenni su internet. Avevano iniziato per scherzo. La più grande aveva postato il suo profilo su una chat di annunci sessuali. Presto erano finite in un giro molto più grande di loro. Quello che Giorgia Serughetti è una ricercatrice della Bicocca di Milano, è autrice del libro Uomini che pagano le donne, dalla strada al web, i clienti nel mercato del sesso contemporaneo, e di S Edizioni. Giorgia Serughetti, buongiorno. Buongiorno. Quello che ci stiamo domandando, io non sono per niente sorpreso da questa vicenda, naturalmente poi levita nei giornali, poi l'importante sarà capire quali saranno i personaggi illustri della Roma imprenditoriale, forse della Roma politica, forse della Roma ecclesiale, non so, azzardo ipotesi, capito, che hanno seguito questo tipo di mercato, ma è una briciolina nel grande mare che leggo e osservo in rete di quello che accade. Ecco, quanto la possibilità di esporsi, di vendersi, di accelerare la domanda e dare campionari interessanti all'offerta ha incrementato questo fenomeno antichissimo, quello delle mamme che offrono le figlie ai signori facoltosi, ad esempio? Tanto, io credo che questa sia l'autentica novità, nel senso che quello che si sentivo anche prima nel corso della trasmissione, in effetti non desta tutta questa sorpresa l'episodio né di minorenni che si prostituiscono, né di madri eventualmente conniventi, né di sfruttatori presenti in questo mercato che, appunto, come sappiamo, è un mercato che è in gran parte, no, sottoposto a forme di sfruttamento. Quello che in qualche modo non è che desti sorpresa tra gli addetti ai lavori, però in qualche modo è un fenomeno nuovo, è proprio l'intermediazione attraverso la rete, che fa sì che con una grande facilità e anche con qualche elemento di gioco, di spensieratezza, si possa cominciare questa, che poi diventa magari una professione e può essere anche, appunto, poi sottoposta a forme di sfruttamento attraverso semplicemente, cioè, postando un proprio annuncio online. La fantasia c'ha ragione, armonizzante doccia con effetto cromoterapia, tra una goccia e l'altra pompini scoperti, ecco, per dire che questo è un annuncio, per dire, ci mettono molta fantasia. Sì, poi appunto ci sono anche spesso persone che aiutano, che fanno un po' un business anche del creare dei copywriter degli annunci. Esatto, no? E soprattutto quando poi entra un po' nelle mani di alcune persone. Però ecco, certamente c'è questa possibilità di autoproporsi, lo si può fare anche con un blog, cioè in proprio, senza entrare, diciamo, su siti, eccetera. Quindi questa è un po' la novità. E questo crea da una parte, cioè crea dei fenomeni antichi e nuovi e comunque molto differenziati anche al loro interno. Cioè questa coppia di ragazze mostrano due situazioni molto differenti, cioè l'una che è trainante, che in qualche modo lo fa un po' per trasgressione, un po' per gioco, poi ci rimane un po' sotto anche perché in qualche modo entra all'interno anche entra l'elemento della cocaina, e l'altra che invece sembra appartenere più alla dimensione del bisogno, lei probabilmente non personalmente, non c'è entrata forse per bisogno, però poi la madre, cioè la mantiene, una volta che scopre il fatto, la mantiene, non la fa uscire. Diventa una risorsa all'economia familiare. Diventa una risorsa all'economia familiare, ecco, in questo ricordandoci quindi delle situazioni di bisogno più antiche, che sono di ritorno, perché in generale adesso si parla di prostituzione collegata alla crisi. Quindi in qualche modo questa cosa è dentro un fenomeno più ampio che ancora una volta torna anche per le italiane a collegare la prostituzione al bisogno di guadagno, no? E in questo caso però coinvolge una minorenne. Cioè, trattandosi di minorenni c'è poco da disquisire sul discorso volontarietà e involontarietà, perché si tratta di un reato, sia naturalmente lo sfruttamento, che è anche per le maggiorenni un reato, ma anche il fatto di acquistare servizi sessuali da una minorenne. Quindi stiamo parlando di una situazione in cui è fatto divieto di prostituirsi e di acquistare i loro servizi sessuali. Stiamo un attimo Antonio, poi ho una domanda da farle, Giorgio Serughetti. Antonio, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti, ascoltatori. Allora, io volevo dirvi questo. Io lavoro in un'azienda di trasporto pubblico e mi capita purtroppo alle volte di aspettare l'orario per partire con l'autobus. I ragazzi 15 anni, 16 anni, 14 anni, ragazzine, che disquisiscono di queste situazioni nel modo così più libero possibile. Faccio un esempio, quali situazioni? Allora, far marchette? Che loro ci contattano persone un po' più grandi anche per avere le ricariche telefoniche, però loro parlano tra di loro ed io che sto alla guida chiuso nella mia cabina neppure se ne accorgono, cioè non mi... Cioè non fa parte della loro prassi quotidiana. Luca, buongiorno, cosa da aggiungere? Sì, buongiorno, io mi dissocio innanzitutto da tutti quelli che si indignano per questa situazione che è uscita. Perché? Adesso, vada al punto, ci abbiamo un minuto. Sì, perché è risaputo, tutti lo sanno, in ogni città ci sono persone, ragazzi, ragazze, anche minorenni che si prostituiscono, anche per cose molto futili, e è risaputo, quindi adesso... Ma lei l'ha sentito dire proprio... o ne ha testimonianza diretta? No, io ne ho testimonianza diretta perché ho dei... io faccio l'allenatore di calcio, ho dei ragazzini che vanno dai 17 ai 20 anni e... Anche loro mi dicono, mi raccontano le loro storie, più o meno le loro storie che hanno con le ragazzine, e mi dicono che alcune sono disposte anche a prestazioni sessuali per cose futili, per un bere in discoteca, per una ricarica del telefono, me lo dicono loro. Io non Giorgia Seughetti, queste due testimonianze portano a un sentito dire, anzi molto più di sentito dire, testimonianze dirette di persone che ci dicono: ma di cosa vi stupite? Le ragazzine oggi si prostituiscono per cose futili. Sì, siamo dentro il sistema sicuramente del consumo e quindi è il superfluo per certi versi, perciò appunto prima dicevo certo c'è anche la dimensione del bisogno, la madre che deve pagare il mutuo allora costringe la ragazzina a rimanere nel mercato, però in generale tutti questi fenomeni di cui si sta parlando quando riguardano ragazzine, studentesse eccetera hanno più a che fare con lo scintillio delle merci, del consumo, del brand, della griff e tutto questo sistema, quindi è quello in cui in qualche modo sono inseriti tanto i clienti quanto le ragazze. E qui già ragazzi, c'era un'escalation, c'era un'organizzazione, adulti che davano gli appartamenti, non è la marchettina fatta al volo per una ricarica. In questo caso però non è un'organizzazione diciamo paragonabile a quelle della tratta, per esempio. No, sono sfigati che lo fanno anche loro perché vogliono arrotondare, chiaro. Esattamente, quindi sembrano essere tutti dentro lo stesso sistema in qualche modo, che è quello di cui si parlava prima, questo fluido del denaro in qualche modo in cui tutto è... Tutto circola, ecco, con lo stesso, quindi in qualche modo siamo dentro lo stesso sistema. Da una parte ragazzine che sicuramente hanno questa, subiscono fortemente l'attrazione di modelli di consumo e dall'altra parte appunto clienti che in qualche consumatori modo che subiscono l'attrazione delle ragazzine. Grazie Seughetti, alla prossima.